Il professor Carlo Ghisalberti è dell'Università di Roma, è autore, lo ricordo, del volume sulla storia costituzionale d'Italia, che è veramente pregevole perché, per dire la verità, storie così complete non è che siano numerose, anzi vorrei dire che... Troppo buono. Niente è troppo buono. Io ce l'ho con te perché mi hai fatto diventare più vecchio di quello che sono. Mi hai attribuito, oltre che quel lavoro del 63, un lavoro del 1921. Ora sarà un errore di stampa grave mio. Io avevo 7 anni. È nato imparato. No, è un gravissimo errore mio quello. È un gravissimo errore mio. E in questo vi chiedo scusa pubblicamente. Sono un pessimo correttore di bozze. C'è un altro Umberto Corsini. Sì, lo so, è vero. Però dovevo mettere in giusto rilievo il... Ecco, e poi, vero, di un volume su la storia dall'antico regime, vero, fino al 1848, il professor di diritto, di storia del diritto costituzionale, ed ha attualmente in corso di stampa un altro volume sull'unità nazionale e gli aspetti giuridici dell'unificazione, volume nel quale sono stati presi anche in esame gli argomenti di cui ci parlerà oggi. E professore, io ho un altro motivo per presentarlo con affettuosità, perché il professor Carlo Ghisalberti è figlio del professor Alberto Ghisalberti, presidente dell'Istituto di Storia del Risorgimento e uno dei migliori studiosi dell'epoca risorgimentale in Italia. Grande il padre, il figlio non... del padre mi lasci dire. Faccia pure. Ecco, oggi ci parla sulla scuola storica del diritto, con riguardo anche al Savigny, che è uno studioso che non è che sia stato ignoto al Trentino, neanche, vero, nell'epoca in cui viveva. Era in grande Salvotti. Sì, in grande dimestichezza con Antonio Salvotti. Io ho portato poi qui un appunto della Bettina von Arnim, non so se lo conosci, dove parla appunto del Salvotti, quando era Landshut, e dice che il Savigny guardava con particolare occhio benevolo al Salvotti. Sì, infatti è detto anche da Patetta questo legame. Questo nostro Trentino. Ecco, io lo ringrazio molto di essere venuto. Io ho avvertito il professor amico Ghisalberti che qui non è una conferenza pubblica, ci troviamo tra studiosi, specialistici degli argomenti, e adesso passo la parola a lui. Io ringrazio voi tutti che mi avete qui invitato, che mi avete invitandomi offerto l'occasione di venire in questo bellissimo istituto, che peraltro non conoscevo, ancorché sia stato a Trento tante volte, non avevo mai messo i piedi qua dentro. Quindi sono rimasto impressionato della vostra gentilezza e dell'accoglienza anche dell'edificio e dell'istituzione. E poi ringrazio l'amico Corsini per le parole che ha voluto dire, che testimoniano una volta di più, quasi non ce ne fosse bisogno, l'amicizia che ci lega da tanto tempo, anche per ragioni familiari, ha ricordato papà, io ti ringrazio moltissimo, anche a nome suo, che ti manda i suoi saluti e ve li manda a tutti. Ora vi ringrazio anche di un fatto, che mi avete offerto l'occasione di verificare alcune idee. Dico subito che qui non sono per fare una lezione e non sono per fare una conferenza, non è lo stile del posto e non è neanche la mia intenzione quello che conta. E la mia intenzione è quella di verificare alcune idee e offrire alcuni spunti, trarre alcune suggestioni per ulteriori ipotesi di lavoro per me. E naturalmente al contatto con tutti voi che conoscete questi problemi, pensiamo per esempio a Schiera, che ci ha dato quel libro veramente bello sul cameralismo tedesco, e dico, io posso certamente imparare più di quanto io qui non possa dare. Quindi tutto quello che mi verrà contrapposto sul piano di osservazioni, di critiche, sia dal punto di vista metodico, sia dal punto di vista contenutistico, da me sarà bene accetto. E io dico subito che sarò felice tutte le volte che mi si toglierà la parola per intervenire e rettificare quello che io qui sto per dire. Quindi, siccome non so com'è l'ordine dei lavori, se parlo prima io sì. O se spezziamo, questo fate voi come volete, insomma. Questo è un problema che voi siete abituati a questo tipo di attività, mentre io per me è la prima volta che capito qui, no? Cioè, qualunque cosa volete fare, io sarò pronto a, non dico a controbattere, perché certamente voi avrete ragione, ma a prendere da voi quello che mi potrà servire meglio per ulteriori approfondimenti di questi studi. Il punto di partenza è il mio interesse per la scuola storica del diritto e in particolare per la figura di Federico Carlo Savigny. Figura, come è noto, studiatissima, così come studiatissima è noto è la scuola storica del diritto. Diciamo subito che il punto di inizio per me di questo interesse risale a una lezione, conferenza che fu tenuta dal mio maestro Francesco Calasso all'Università di Magonza molti e molti anni fa, e che l'anno della morte del Calasso, nel 1965, fu pubblicata in quel volume miscellaneo degli annali di storia del diritto che comparve come raccolta generale di scritti minori di Francesco Calasso. L'articolo in questione si intitola Savigny e l'Italia. Il discorso di Calasso tendeva a mettere in luce l'importanza, a suo giudizio enorme, che il Savigny aveva assunto nella formazione della moderna storiografia del diritto in Italia, mettendo in luce come la storiografia giuridica italiana nasce come riflessione su una certa metodologia imposta all'attenzione degli italiani dalla conoscenza della storia del diritto romano nel Medioevo dello stesso Savigny. Talché, dice Calasso, la figura di Sclopis, grossissimo personaggio, la figura di Albini, personaggio più modesto, e al termine la figura di Antonio Pertile, e meglio ancora delle singole figure, la loro produzione storiografica si comprende soltanto come sviluppo di certi contenuti teorici e di un certo pensiero storico che aveva avuto le sue matrici prime nella riflessione sulla metodologia e sulle ricerche compiute dal Savigny con la storia del diritto romano del Medioevo. Quindi il rapporto tra Savigny e l'Italia era dal Calasso visto come un rapporto di derivazione della scuola storico-giuridica italiana dalla produzione scientifica di Savigny e più esattamente da quella storia del diritto romano del Medioevo che, come voi sapete, costituisce in certo senso l'apice della produzione storiografica del Savigny. Ora, il discorso che è stato fatto dal Calasso, che era in certo senso un discorso celebrativo del Savigny nel contesto di una serie di celebrazioni tenute all'Università di Magonza, e soprattutto l'affermazione di Calasso sulla derivazione della scuola storico-giuridica italiana dalla scuola storica del diritto tedesca impersonata da Savigny e realizzata contenutisticamente e programmaticamente nella storia del diritto romano del Medioevo, in realtà è un discorso un po' semplicistico. Io ho una grandissima memoria e riconoscenza al mio illustre, grandissimo maestro, ma devo dire che la tesi centrale che Calasso portò avanti in questo discorso era quello che prima in Italia non vi era una storia giuridica, una storiografia giuridica nel senso moderno della parola, e questo è fuori discussione. Ma dire, come fa Calasso, che dopo la lettura dell'opera savignana gli studiosi di storia giuridica in Italia hanno preso le ali è un po', diciamo, verso un volo più elevato, è forse un discorso un po' semplicistico, nel senso che Se noi prendiamo la storia del diritto romano del Medioevo, noi ci troviamo di fronte a un grosso problema, ed è questo. Savigny, come voi sapete, nella storia del diritto romano del Medioevo, quella che il tuo amico Salvotti, chiedo scusa, il tuo conterraneo Salvotti, aveva iniziato a tradurre, unitamente a quell'altro giudice trentino di nome Paride Zaiotti, trentino anch'esso credo, Savigny nella storia del diritto romano del Medioevo ha presentato organicamente la vicenda di un diritto romano che dopo la caduta dell'impero d'Occidente, più ancora dopo la invasione longobarda nella penisola italiana, si è mantenuto vivo e vitale in tutto l'alto Medioevo, avendo poi il suo massimo fiorire a livello scientifico, questa è la tesi del Savigny, con la rinascita dopo il 1000 e con la successiva genesi dell'Università di Bologna e quindi la formazione delle successive scuole, dei glossatori e dei commentatori e via dicendo. Questa era grosso modo la prospettiva di Savigny. Ora intendiamoci, un discorso simile era stato anticipato in fondo da un italiano, personaggio di grossa dimensione culturale e secondo me di altissimo valore, purtroppo ignoto, che invece il Savigny aveva conosciuto. Alludo a Donato Antonio d'Asti, il quale nel 1720-22, nel Mezzogiorno, era un giudice d'Asti, pubblicò un'opera da questo titolo, dell'uso e dell'autorità della ragion civile nelle province dell'impero occidentale dal dì che furono inondate dai barbari sino all'impero di Lotario II. Il d'Asti aveva dimostrato la lunga continuità dell'utilizzazione del diritto romano durante l'alto Medioevo, anticipando quindi quello che Savigny farà come discorso proprio. E quindi da questo angolo visuale il d'Asti aveva mostrato come nell'età romano-barbarica e nell'età longobarda e nell'età carolingia si mantenne inalterato l'uso del diritto romano come legge personale delle popolazioni romane e che anzi i barbari non offesero mai, uso il termine offendere perché l'ha usato Donato Antonio d'Asti, la maestà delle leggi romane. Savigny non cita d'Asti, eppure Savigny anzi non solo non lo cita ma in un passo contesta duramente, prendendo poco con una certa superbia, prendendo poco in considerazione gli atteggiamenti assunti da chi come d'Asti aveva appunto sostenuto questa tesi che egli farà sua. E quindi da questo angolo visuale bisogna dire come sul piano contenutistico della storia del diritto romano del Medioevo quest'opera di d'Asti, che ebbe a suo tempo, soprattutto in Italia meridionale, una serie di successi, fu citata, fu diffusa, ebbe più edizioni, quest'opera di Donato Antonio d'Asti anticipava certi contenuti dell'opera di Savigny. Qual era il centro, diciamo così, della tesi del d'Asti e qual è il centro della tesi di Savigny? È questo. Il diritto romano, quando cadde l'impero romano d'Occidente e quando venne meno soprattutto la dominazione bizantina della penisola che aveva imposto il diritto giustinianeo dopo la pragmatica sanzio pro petizione vigilii nel secolo VI alla popolazione, si mantenne in vigore non ratione imperii sed imperio rationis, cioè non a causa di un impero che imponeva l'osservanza delle sue leggi, ma per la ratio intrinseca che derivava dalla stessa superiore qualità del diritto romano. Tesi questa che era di Donato Antonio d'Asti, peraltro Donato Antonio d'Asti aveva usato questo termine ratio imperi e imperium rationis, mutuandolo da umanisti, ultimo dei quali era stato Arthur Duke nel 600, e il d'Asti l'aveva a sua volta fatto ereditare a Savigny, che non lo aveva per nulla, diciamo così, citato, né aveva fatto altro che dichiarare di avere scoperto questa continuità senza in certo senso mai riferirsi a coloro che l'avevano proceduto in questa tesi. Quindi il discorso di Calasso, da questo angolo visuale, se centrava dal punto di vista della esaltazione del valore storiografico dell'opera di Savigny, della storia del diritto romano del Medioevo di Savigny, non teneva in un conto sufficiente quella che era forse la fonte prima di Savigny, e peraltro non si fondava in realtà sull'analisi dei presupposti metodologici su cui si reggeva l'intera costruzione di Savigny, che infatti l'intera costruzione di Savigny, se fosse stata analizzata a fondo, se fosse stata studiata come effettivamente merita di essere studiata e come ancora non stiamo facendo, e come ancora in realtà quasi nessuno si può dire ha fino a questo momento compiuto, anche gli studi più recenti, prendiamo per esempio quelli del Marini, ci mostrerebbe come la costruzione metodologica, l'ispirazione di Savigny è direttamente legata a un certo tipo di cultura che con l'Italia ben poco ha in comune. Alludo al fatto, usando il termine oggi alla moda di ideologia tedesca, che la costruzione metodica, lo spirito informatore, le tesi centrali portate avanti da Savigny si riconnettono esattamente a quello che può definirsi il processo formativo dell'ideologia tedesca. E cerchiamo di essere un po' più puntuali. E diciamo subito che il problema centrale del Savigny non è il problema contenuto nella storia del diritto romano del Medioevo, ma è semmai il problema degli scritti programmatici, che sono quelli che compaiono nel 1814, ovvero nella Vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza e nel Manifesto della rivista che egli allora metterà in campo. E da questi dobbiamo partire. Voi sapete, perché questo ci riporta ancora ad un certo legame con una cultura italiana, voi sapete come vi sono dei caratteri comuni in tutta l'ideologia controrivoluzionaria. Vi sono dei caratteri comuni che qualificano l'intera ideologia controrivoluzionaria ed antinapoleonica in tutta Europa, sia nella sua fase formativa, e cioè all'epoca della guerra condotte dal direttorio per la espansione sia in Germania, in Austria e in Italia, sia nell'epoca più tarda del periodo più dichiaratamente napoleonico, del periodo imperiale. Vi sono dei caratteri comuni in questa ideologia controrivoluzionaria. Sono quei caratteri comuni che sono stati evidentemente teorizzati, diciamo, sono stati enucleati, sono stati diffusi soprattutto ad opera di una serie di scrittori troppo noti perché qui noi ci si debba soffermare a trattarli. Alludo per esempio al Burke delle riflessioni sulla rivoluzione francese o al De Maistre delle considerazioni sulla Francia. Il Burke scrive nel 1790, il De Maistre scrive nel 1796. Che cosa dice Burke? Burke dice che le istituzioni politiche e i regimi hanno una lenta e graduale evoluzione e che l'optimum di un regime politico, l'optimum di una struttura istituzionale si ha quando questa si fonda sulla lunga tradizione, si fonda sulla consuetudine, si fonda sull'uso spontaneo da parte di una nazione. Quindi Burke, inglese, è portato ad esaltare il sistema costituzionale britannico fondato sulla storia e non sulla ragione. De Maistre, nelle considerazioni sulla Francia, fa l'esaltazione anch'egli della Costituzione di tipo consuetudinario che accetta il diritto divino, che accetta le tradizioni recepite contro le Costituzioni emanate da legislatori, siano essi uno o siano essi più legislatori come un corpo componente una assemblea. Questo è noto. L'ideologia controrivoluzionaria ha moltissimi esponenti, ma questi, diciamo, sono i due esponenti che hanno maggiore successo in Europa. Nel 1797, nel pieno della campagna d'Italia, alla vigilia del Trattato di Campo Formio, uno scrittore italiano che pubblica anonimo, ma che è stato identificato in un vecchio studio del Gallavresi, Vittorio Barzoni da Lonato, pubblicò un libro dal titolo I Romani nella Grecia, in cui egli disse che quando i Romani, gli antichi Romani, conquistarono la Grecia, imposero alla Grecia le proprie istituzioni, le proprie leggi, senza curarsi per nulla del carattere peculiare e nazionale della popolazione greca, popolazione questa di antichissima civiltà, la quale popolazione venne in questo modo due volte offesa, una prima volta dalla sconfitta militare che impose ai greci l'egemonia romana dopo che questi poveri greci avevano subito quella macedone, in secondo luogo dal fatto che i romani, ignari degli usi, delle consuetudini, delle tradizioni dei greci, avevano imposto a questi greci le istituzioni e le leggi romane. Il riferimento è evidentissimo. Si tratta di uno scritto del 1797 che se ne pubblicano in diverse edizioni, tra l'altro nel 98 ne circoleranno ancora con maggiore acribia perché viene immediatamente ripubblicato dopo il Trattato di Campoformio o Campoformido, che dir si voglia, non l'ho ancora imparato, che c'è si diceva Campoformido, non lo so ancora come si dice appunto. Dopo il Trattato di Campoformio viene ripubblicato. Ora qui c'è un chiarissimo contenuto di richiamo storicistico antirazionalista e soprattutto di richiamo di un sentimento nazionale fondato sull'esaltazione delle tradizioni, delle consuetudini, degli usi contro l'ideologia della rivoluzione e portata innanzi appunto dai francesi e dai loro amici giacobini in Italia. Stesso concetto che noi troviamo ben altrimenti espresso, molto meglio formulato nel saggio storico di Vincenzo Cuoco, il quale saggio storico di Vincenzo Cuoco, non tanto per i contenuti generali del saggio, quanto per ciò che accompagna il saggio in calce come appendice e per i famosi, cioè frammenti di lettere a Vincenzo Russo, contiene la esaltazione più forte di quelle che sono le istituzioni che sgorgano direttamente dalla natura, dalla tradizione, dal costume di un popolo contro l'astrattismo rivoluzionario. L'ideologia rivoluzionaria, dice Cuoco, ha voluto, ignorando le peculiarità nazionali, ignorando le varietà individuali e particolari, imporre un diritto pubblico uguale in tutto il mondo, quasi che questo diritto pubblico potesse andare per ogni tipo di individuo e per ogni tipo di popolo, calpestando quindi le varietà regionali, le varietà nazionali, le varietà particolari. In pratica, in Cuoco, nel saggio storico, noi abbiamo, come notissimo, la prima formulazione seria in Italia, e quelle precedenti sono meno autorevoli, diciamo, di una concezione storicistica della vita pubblica, di una concezione storicistica del diritto. Ora, intendiamoci bene. È poco noto, ma è noto, in realtà, come Cuoco sia stato tradotto in tedesco nel 1805. Nino Cortese, nella sua edizione del saggio storico pubblicata da Vallecchi, e compianto Nino Cortese così bravo e così amabile, mise in luce come la traduzione di Cuoco in tedesco avvenne nel 1805 ed ebbe una certa diffusione nell'ambito della cultura romantica e storicistica in via di formazione allora in Germania. Da questo punto di vista era come calare dell'olio bollente in una pentola che già era sul fuoco, nel senso che la polemica di Cuoco contro il razionalismo e l'astrattismo dell'illuminismo e della rivoluzione veniva logicamente a crescere ancora di contenuti metodologici e di aspirazioni romantico-storicistiche quelle che saranno le tesi centrali del romanticismo e dello storicismo nascenti in Germania. Che cosa viene fuori? Viene fuori in pratica che contro l'ideale astratto di un diritto fondato sulla natura e sulla ragione, qual era quello dell'illuminismo, si esalta da parte di Cuoco il diritto come espressione della coscienza popolare. Questo è Cuoco. Ora è noto come nel mondo tedesco c'era stata qualche cosa di più dal punto di vista della formazione di una ideologia antirivoluzionaria, antilluministica, antiastrattismo, antiuniversalismo. L'illuminismo si era palesato come un movimento livellatore che distruggeva le peculiarità nazionali, le varietà dei gruppi, delle forze pluralistiche, particolaristiche presenti in ogni società. Ora, contro questo illuminismo livellatore, la cultura tedesca romantica aveva sempre idealizzato i legami sociali, comunque recepiti dal costume, dalla tradizione e dagli usi. Da questo punto di vista, le tesi illuministiche che esaltano la legge, che esaltano la codificazione del diritto, sia pubblico sia privato, e che tendono a regolamentare astrattamente ciò che natura e storia hanno resi sempre diversi, trovavano nel pensiero di Cuoco un ulteriore elemento di catalizzazione. Nel senso che nel Cuoco c'è l'esaltazione del particolare contro l'universale, nel Cuoco c'è l'esaltazione del singolare, dell'individuale contro il generale, nel Cuoco c'è l'esaltazione di tutto un mondo storico fatto nella sua varietà dal tempo contro un mondo concepito al di fuori della storia, ma sulla base di principi totalmente razionalistici e quindi universalistici, di principi che, secondo il Cuoco, non hanno nessun riscontro contro con la realtà effettuale. Voi pensate, ad esempio, come nel mondo romantico del preromanticismo tedesco, in Justus Möser noi avevamo avuto una dura reazione già nel 1774, quando scrive Möser, contro l'uniformità programmatica di una legge moderna in difesa invece della varietà, della singola individualità della tradizione giuridica antica. Möser contesta la legge contro il privilegio, contro la libertà, contro il contratto, contro, una parola sola possiamo dire, contro la tradizione normativa fino a quel momento recepita. E cioè perché? Perché la legge si pone come precetto generale ed astratto e considera tutti gli uomini al di là di quelle che sono le circostanze ambientali nei quali li ha precipitati la storia, laddove invece per lui, per i romantici del suo calibro, per i romantici del suo livello, le individualità vanno assolutamente salvate e una legge non potrà mai capire le individualità. La stessa legge che si porrà come legge liberale, in certo senso, concepisce in fondo questo mondo di libertà che la legge pensa di fondare come una libertà fondamentalmente egualitaria e livellatrice e non anche, come invece si sostiene in quel periodo storico, come una libertà come garanzia, come una libertà come privilegio, come una libertà che tende in pratica, come è stato giustamente detto da qualcuno, a fare del suddito un barone, quindi un privilegiato, e non del suddito un cittadino. Ancora, se questa era la posizione di Möser nei riguardi della legge, se questa era la posizione di Möser nei riguardi della legge, prendiamo per esempio la posizione di Adam Müller. Adam Müller, come voi sapete, scriverà due cose che sono essenziali. Una nel 6, e sono le conferenze sulla scienza e la letteratura tedesca. L'altra nell'8, gli elementi dell'arte politica. Nelle conferenze sulla scienza e la letteratura tedesca del 6, il Müller, contro l'idea di uno Stato egualitario e livellatore, che è tipica in fondo dell'illuminismo, del contrattualismo, del giusnaturalismo francese e che è portato innanzi dalla rivoluzione e a quel punto anche dall'impero napoleonico, propone la visione dello Stato come forma più elevata della spirituale comunanza del popolo, di uno Stato che a suo giudizio è un organismo vivente, che è un tutto indivisibile fatto da un popolo costituito in entità globale vivente, la quale entità globale vivente vive come un'individualità al di là delle persone che la compongono, che a sua volta nella sua forma di spirituale comunanza più avanzata è in certo senso dà vita a questo Stato, organismo vivente anch'esso. Lo Stato, per il Möser, creatore appunto di questa forma spirituale più elevata di convivenza del popolo, lo Stato vive accanto al diritto, non crea il diritto, ma vive accanto al diritto e è, in certo senso, lo stesso Stato espressione del diritto. Sia il diritto e lo Stato sono, per Möser, il prodotto della storia, non sono il prodotto della ragione, come hanno sostenuto giusnaturalisti, contrattualisti, illuministi, rivoluzionari e gli ideologi del periodo imperiale. Negli elementi della scienza politica, Möser sostiene che lo Stato si presenta addirittura come un'idea etica, e questo è un fatto estremamente importante perché è legato direttamente ai successivi sviluppi del pensiero tedesco, di un'idea etica eterna, la quale idea, essendo eterna, non è legata al presente, ma al tempo stesso è legata al passato, al presente e al futuro. È uno Stato totalizzante che assomma dentro di sé uomini e beni e che sublima chi vive dentro di sé, dando un senso della vita e quindi un senso della storia al singolo individuo che nella collettività che viene organizzata da questo Stato, organismo vivente, e che essa stessa, prima dello Stato, fa parte del popolo, ha uno scopo, ha un fine, ha un obiettivo da raggiungere. Questo popolo, e qui è un punto interessante, non è un popolo concepito unitariamente come nell'ideologia illuminista, ma è un popolo concepito come gruppo di stati, di ceti, di forze presenti nella società, in quel mondo disarticolato, pluralistico, particolaristico che è tipico delle antiche concezioni dello Stato, del potere, del mondo tedesco. E quindi, diciamo, per Möser la funzione degli stände si mantiene anche nella visione organica di uno Stato, il quale Stato comprende dentro di sé questi stende che a sua volta gli danno una certa articolazione, senza mai negarne l'esistenza, ma anzi sommando la loro esistenza a quella dello Stato, nel senso che costituiscono, per così dire, le membra di questo organismo vivente che è lo Stato stesso. Io vi chiedo scusa se mi soffermo su questi, diciamo così, su questi pensatori tedeschi che certamente voi conoscete benissimo, soprattutto Schiera li conosce perfettamente, in quanto Schiera, dal quale io attendo appunto una serie di osservazioni, perché Schiera si è occupato di queste cose da par suo benissimo, cioè potrà darmi molti altri elementi che a me serviranno naturalmente in avvenire. E per questo, anzi, io non lo so, se voi volete io continuo oppure ci interrompiamo e discutiamo. Come volete voi, siccome, no, perché appunti ce n'ho tanti, non vorrei poi alla fine annoiare, quindi a un certo punto direi ci fermiamo, chiacchieriamo un po', poi riprendiamo, tanto qui siamo pochissimi amici con i quali possiamo discutere e litigare anche, tanto non è che per questo ci impediremo di andare a mangiare un panino assieme dopo. Vi è poi un altro aspetto che abbiamo visto fino adesso, soprattutto il concetto romantico, diciamo, che ha posto la sua critica alla legge razionale universale e ha formulato un suo concetto di Stato e di diritto. Ma cerchiamo ancora di vedere qualche altro spunto che è alla base del pensiero del nostro Savigny, al quale arriveremo come punto in fondo, naturalmente. Herder. Herder è alla fine del Settecento, quando ci scrive qualche cosa sul concetto originale di folk. Che cos'è questo folk? La parola folk ha, come voi sapete, il significato di popolo, ma in realtà, come è bene stato messo in luce, non in relazione a questo pensiero, diciamo così, romantico, antifrancese della fine del Settecento e dei primi dell'Ottocento, come bene è stato messo in luce da quel grande studioso della cultura tedesca che è Mosse, sia il Mosse della nazionalizzazione delle masse, sia il Mosse delle origini culturali del Terzo Reich, il concetto di folk comprende qualche cosa di ben differente dal concetto di popolo, nel senso che nella sua individualità, nella sua originalità, il folk si autodefinisce e per la lingua e per le tradizioni e per lo spirito, soprattutto per lo spirito. Di questo spirito che, come dirà poi Arnim, darà al popolo una ragione di vita e al singolo componente di questo popolo un senso peculiare della sua esistenza nella più generale sua collocazione nell'ambito del folk. Arnim è, credo, se e qui sono pronto naturalmente a prendere spunti da quello che mi direte, è forse il primo che nel 1813 tira fuori il termine di Volksgeist, di spirito del folk o di spirito del popolo. Nel senso che prima di Arnim io non ho l'impressione che nella cultura tedesca venga fuori, emerga il concetto di Volksgeist, nel senso che poi sarà ripreso dal Savigny nei suoi scritti programmatici e metodologici, prima quindi della storia del diritto romano del Medioevo. Voi sapete che questo è un momento drammatico, nel senso che la cultura tedesca in quel momento ha l'impatto con la resistenza antifrancese, ha l'impatto con le guerre napoleoniche, impatto che porteranno alla grande rivolta nazionale, alla battaglia di Lipsia, all'espropriazione della Francia dalla Germania. È molto difficile seguire lo svolgimento completo della cultura tedesca in quel periodo. Io penso che un buon tentativo da parte di un non tedesco di interpretazione generale di quella storia del romanticismo e dello storicismo tedeschi in relazione al problema pubblicistico, al problema politico, sia stata quella di quello scrittore francese, di Dross, che ha fatto quel libro importante sulle romantisme allemand e l'età, Résistance et collaboration dans l'Allemagne napoléonienne, e che ha pubblicato poi anche nella Clio quell'antologia di testi tedeschi nella traduzione francese. Di queste contraddizioni, diciamo, del mondo tedesco in quel momento, la più palese, la più eminente, è quella offertaci dal maggiore pensatore tedesco di tutti i tempi, Hegel. Hegel, come voi sapete, nel primo Hegel, diciamo, quello degli scritti Filosofia dello Spirito, edizione 1805-6, oppure Fenomenologia dello Spirito, 1807, si rivela inizialmente filo Napoleone, Napoleone novello Teseo che pascola sotto le sue finestre, Napoleone che lo porta ad esaltare uno stato di tipo universale, omogeneo, Napoleone che ha creato col Code Civil quel modello che la Baviera tende in quel momento ad imitare, Napoleone che addirittura anticipa e prende atto di certe soluzioni corporative che vi sono nella realtà sociale quando, dice Hegel nella Filosofia dello Spirito nel 5 e nel 6, crea quelle strutture di collegi elettorali dei dotti, dei commercianti, dei possidenti per il Regno Italico che costituiscono in certo senso il veicolo della partecipazione politica, cosa che eccita in quel momento Hegel, che poi con la Filosofia del Diritto al termine della sua carriera arriverà a costruire in fondo una società corporativa. i tre collegi elettorali, che sono quelli poi, se mal non mi appongo, li ricorda pure Foscolo, già il dotto, il ricco di Patrizio Volgono, adesso non mi ricordo i versi di Foscolo, ma mi pare che lo stesso Foscolo, in fondo, che ironizza su questo, ricorda in fondo questa società corporativa concepita nella struttura napoleonica. Comunque, Hegel assomma certe caratteristiche, certe contraddizioni del primo periodo, dominazione tedesca francese sulla Germania, mentre all'opposto lo Stein, di cui qualcuno presente sta studiando caratteri essenziali qui, lo Stein in fondo reagisce duramente in nome della resistenza all'introduzione di ordinamenti francesi nella Germania di quel periodo. Ricorre frequentemente, come ho detto, dopo l'esperienza che è stata fatta da Arnim della sua esaltazione, il concetto di Volksgeist. E in particolare vi è uno scrittore, il Görres, il quale esalta il Volksgeist in relazione alla storia giuridica. Egli dice, il Görres, che il Volksgeist era l'effettivo fondamento, l'elemento, il supporto ideale e al tempo stesso la base materiale di durata del bel diritto antico di derivazione medievale, egli dice, contro ogni tipo di costituzione moderna dettata da un legislatore o ogni tipo di legge destinata a durare molto poco rispetto al paragone invece di queste belle belle leggi che derivano dalla coscienza popolare. Il Görres contrappone quindi alla Costituzione uniforme, omogenea, monolitica proposta dalla Francia e alle leggi, diciamo così, di carattere universale ed astratto proposte dalla Francia, la tradizione medievale. Su questa impostazione culturale si inserisce la posizione di Savigny. Dice Savigny, trascrivo dalla Vocazione del nostro tempo per la legislazione e per la giurisprudenza nel 1814. Egli dice: il senso o il sentimento della grandezza particolare di ogni epoca si è perso nel XVIII secolo. Si è voluto sostituire a quello un illimitato ottimismo sulla virtù del tempo nostro, chiamato a dare alle nazioni l'assoluta perfezione. Questa tendenza si è espressa ugualmente nel campo del diritto. Si è reclamata una nuova legislazione suscettibile, nella sua perfezione, di offrirci perfetta sicurezza e di assicurare, togliendo ogni autonoma iniziativa ed ogni facoltà di giudizio al magistrato, punto questo che dovremo rivedere, l'applicazione liberale della legge. Questa legislazione vuole eliminare le peculiarità storiche. Interamente astratta, essa vuole essere valida per tutti i popoli e per tutti i luoghi. Se noi prendiamo i frammenti di lettere a Vincenzio Russo di Cuoco, noi troviamo espressioni praticamente identiche in relazione al giudizio che egli dà del comportamento di Mario Pagano e degli altri giacobini napoletani che vollero imporre la Costituzione francese dell'anno terzo alla Repubblica Napoletana, morta appunto nel 99, di cui il Cuoco fece la storia. E coerentemente a questo, come è noto, Savigny diceva che la legge e le istituzioni non possono essere imposte dall'esterno, ma debbono scaturire organicamente dallo spirito della nazione e dal patriottismo popolare. In particolare, questa teoria di Savigny aveva avuto un certo rilievo nella una certa originaria formulazione, anche se non perfettamente in linea con quelli che erano gli scopi del patriottismo tedesco, quando nella rivista Magazzino Civilistico del 1790 Hugo, una rivista civilistica del 1790, Hugo, aveva affermato che il diritto romano arcaico era stato il più tipico prodotto del Volksgeist, della gente latina, quando cioè aveva affermato che il diritto romano arcaico rappresentava il tipo di diritto scaturito direttamente dalla vocazione di quel popolo romano arcaico verso la, legislazione e la giurisprudenza. Nel senso che, diceva Hugo, il diritto romano arcaico di base consuetudinaria, e infatti egli documentava come le leges regie e le leggi decemvirali, ovvero le 12 tavole di base consuetudinaria, fossero stati proprio il prodotto tipico dello spirito, che poi potremmo tradurre anche nel termine di civiltà, della popolazione latina arcaica. Nel 1808, riprendendo questa motivazione del Volksgeist come elemento portante dello spirito del diritto, Eichhorn, nella storia del diritto e dello Stato tedesco, aveva detto che qualunque diritto avrebbe dovuto scaturire soltanto dopo una lunga evoluzione e in connessione direttamente con la storia del popolo considerato come entità vivente, come entità organica, come entità individualizzata con una sua esistenza propria. Come voi vedete, quindi, alle spalle di Savigny vi erano diverse concezioni. Da una parte vi era la concezione di uno Stato concepito in modo organico, dall'altra vi era la concezione di un popolo concepito come individualità vivente organicamente. Dall'altra parte vi erano tendenze storiografiche che, guardando all'antico diritto romano e all'antico diritto tedesco, mettevano già in relazione queste tendenze, che avranno espressione poi nel pensiero di Savigny, con concrete esperienze storiche. Il punto centrale, diciamo così, il punto di rottura di un discorso meramente teorico con un discorso invece che si qualifica nel suo contenuto politico, è di fronte al problema della codificazione napoleonica. Voi sapete che Napoleone I, emanando il codice civile, era estremamente deciso a far imporre il codice civile in tutti i territori soggetti all'impero. Così fu per l'Italia, così avrebbe dovuto essere per la Confederazione Renana, così quindi per buona parte della Germania. Il Rehberg, August Wilhelm Rehberg, nel 1813, parlando proprio del Codice Napoleone, in uno scritto che porta appunto il titolo sul Codice Napoleone, attaccò duramente questa posizione imperiale, sostenendo che l'introduzione nella Confederazione Renana, nei paesi della Germania occidentale, della codificazione napoleonica avrebbe implicato la rottura definitiva del costume tedesco. E in particolare egli, polemizzando contro l'astrattismo francese che volevano imporre la codificazione napoleonica su tutti i territori egemonizzati dall'impero, egli sosteneva che gli istituti successori e gli istituti familiari, nei quali si fondava l'esistenza più intima della società tedesca, venivano ad essere rotti nella loro tradizione dal modo di essere codicistico imposto dalla Francia alla realtà sociale germanica. Non solo, ma muovendo da questo concetto, egli rifiutava anche la base teorica dello Stato legislatore, negando il contrattualismo, che era l'elemento portante della concezione moderna dello Stato legislatore, e negando anche i postulati giusnaturalistici, in quanto egli rifiutava della filosofia del diritto naturale l'idea della fondamentale eguaglianza di tutti gli uomini, perché egli diceva che gli uomini sono uguali solo di fronte al Dio creatore, ma non di fronte allo Stato e alla legge, che anzi, a differenza di Dio, che può considerarli uguali per i fini superiori che gli uomini hanno da un punto di vista religioso, ovvero metafisico, ovvero teologico, Lo Stato e la legge debbono soltanto prendere atto delle varietà e delle particolarità che gli uomini hanno. E quindi lo Stato e la legge non possono trattare gli individui astrattamente, come se fossero uguali, come voleva il appunto Napoleone e i rivoluzionari francesi. È il momento questo, come ho detto, della introduzione in Germania del codice Napoleone, ma la polemica contro la concezione egualitaria e livellatrice del contrattualismo, la polemica contro la concezione egualitaria e livellatrice del giusnaturalismo e in certo senso dell'ideologia rivoluzionaria ha un grossissimo personaggio che ci si è impegnato fin dall'inizio ed è Fichte. Fichte, nel libro sui fondamenti del diritto naturale, ha negato la possibilità di concepire gli uomini uguali dal punto di vista della legge e dello Stato, in quanto lo Stato, nella sua visione organicistica, è composto da individualità che lo compongono, né più né meno che il corpo umano è composto da membra tra loro diverse. E quindi, dice Fichte, nella concezione organicistica dello Stato non vi è spazio per una uniformità e un'eguaglianza degli uomini, vi è spazio per una presa di coscienza da parte del potere delle particolarità che i singoli individui, che i singoli gruppi sociali hanno nello Stato in una visione organica. Non solo, ma lo Stato non si fonda sul contratto sociale, lo Stato non si fonda sulla libertà del singolo, ma lo Stato si fonda invece, e qui diciamo c'è un certo giudizio estremamente pessimistico che Fichte dà degli uomini, sulla coazione necessaria allo Stato stesso per coordinare, regolare e dirigere l'esistenza del corpo sociale, l'esistenza cioè di tutti gli uomini che vivono con varia posizione dentro lo Stato. Questa varietà, diciamo, questa varietà dello Stato, degli individui, questa varietà del corpo sociale e quindi questa necessità che lo Stato assuma una politica legislativa, una politica del diritto capace di fronteggiare la varietà dei singoli, la varietà delle singole individualità, la peculiarità e la particolarità, noi la troviamo anche in Schleiermacher, che nei monologhi del 1800 sostiene, usando il termine che poi sarà di Burckhardt, che lo Stato è una meravigliosa opera d'arte, in quanto lo Stato, prendendo atto della costruzione sociale così varia, peculiare, molteplice e non uniforme, ha un compito, che è quello di spiritualizzare all'estremo i legami collettivi ed esaltare i vincoli spirituali degli uomini tra loro, degli uomini che naturalmente restano tra loro diversi. Se voi prendete ancora Schelling, le conferenze sul metodo dell'insegnamento scientifico nel 1802, voi vedete come anche Schelling, che usa il termine organismo per lo Stato, ormai termine che è comune, anche egli dice che lo Stato ha il compito di condurre gli uomini, di condurre il popolo nella storia, garantendo a questo popolo, a questi uomini, alla loro individualità, nella loro differenza, un comportamento unitario dal punto di vista della storia, la quale storia è a quel punto non storia dell'individuo, ma storia dello Stato, perché l'individuo potenzia se stesso nello Stato. Di nuovo, Savigny. Torniamo per un momento a Savigny, cioè riavviciniamoci di nuovo a Savigny, che è nel fondo l'elemento della nostra riflessione. Se voi volete ci fermiamo, naturalmente, questo a un certo punto ditemelo, perché io ho parecchi appunti, quindi io non vorrei annoiarvi o tediarvi tanto, perché ancora un quarto d'ora. Ecco, poi mi fermi e poi discutiamo, poi riprendiamo semmai, se volete, non so come funziona qui. Poi io sono il vostro servo, quindi non, voi fate quello che volete assolutamente. C'è un punto estremamente interessante di tutto questo discorso ed è quello che gli autori che noi abbiamo nominato anche quando sono stati giuristi nella loro formazione, così Rehberg, così Hugo, così Heihorn, sono dei giuristi che hanno fatto della storia del diritto. Non si sono occupati, altro che marginalmente e scarsamente, del diritto dal punto di vista della sua dimensione orizzontale, diacronica, vale a dire istituzionale, ma sempre della sua dimensione sincronica, vale a dire della sua dimensione storica. E da questo punto di vista ci troviamo di fronte all'esaltazione che Savigny nel manifesto del 14 fa dello Hugo, dicendo che Hugo aveva fondato il suo lavoro storico e giuridico ad un tempo su un'idea più alta, dice Savigny, secondo la quale tutta la scienza del diritto non è altro che storia del diritto. Cioè, il Savigny in pratica sosteneva che nella scienza del diritto, il cui obiettivo è la conoscenza, si può procedere soltanto con metodo storico, e cioè che la storia serve al diritto, nel senso che l'unica conoscenza possibile del fenomeno giuridico è la sua conoscenza storica. Quindi vi è una identificazione della scienza giuridica con la storia. Alcuni studiosi di Niebuhr hanno sostenuto che Savigny avrebbe trovato questa identificazione della scienza giuridica con la storia in Niebuhr, o meglio, che il Niebuhr, riflettendo sulle antichità romane, ove per il termine di antiquitates si intende la collocazione istituzionale del materiale antiquario, che comprende naturalmente anche il diritto, il Niebuhr aveva detto come tutte le manifestazioni antiquarie debbono essere comprese soltanto storicamente, nel senso che l'unica conoscenza che si poteva avere del mondo classico, anche sub specie iuris, aggiungiamo noi, era la conoscenza storica. Per cui è probabile, e i carteggi tra Niebuhr e Savigny pare che lo possano confermare, è probabile che ci sia una ricorrenza di affermazioni di questo genere in Niebuhr, e quindi, dico è probabile perché ancora non li ho visti, e quindi da questo punto di vista io riferisco qui un'opinione altrui che posso anche citare, è di un mio amico che sta lavorando su Niebuhr, ed è Massimiliano Pavan, storico antico che tu forse lo conosci, il quale mi ha detto appunto come questo è profondamente ricorrente, parlando nell'altro ieri appunto. E quindi io dico, citando questo mio amico che mi ha offerto questo spunto, che da Niebuhr sarebbe derivata questa identificazione della scienza giuridica con la storia, nel senso che in Niebuhr il concetto di antiquitates si fonde sul piano conoscitivo con il concetto di storia, negando il Niebuhr la possibilità di una conoscenza istituzionale del mondo antico, ma soltanto di una conoscenza storica di quel mondo. E Savigny quindi avrebbe fatto di ciò, avrebbe tratto da ciò l'aforisma che la scienza del diritto non è altro che la storia del diritto, in virtù dei postulati storicistici dei quali poi dovremo ancora parlare. Peraltro Schelling nel 1802 aveva scritto che l'idea divina del diritto si manifesta soltanto nella storia, e che quindi, in conseguenza di questa affermazione, aveva derivato l'idea che il diritto era un prodotto della storia. Frase questa di carattere generale, che non ha lo stesso significato della frase prima citata del Savigny, che dice come la scienza del diritto non è altro che la storia del diritto, perché sostenere che il diritto è un prodotto della storia non vuol dire per questo negare un valore autonomo alla scienza del diritto, ma di questo dovremo ancora parlare. Federico Schlegel, quasi contemporaneamente in quegli anni, aveva lanciato un'affermazione che viene, per così dire, ad essere un elemento di maggiore, diciamo così, che dà maggiore consistenza e maggiore spessore alla tesi di Savigny, quando dice che il mondo non è un sistema ma una storia. Perché questo? Perché affermando praticamente che la conoscenza del reale si può avere soltanto storicamente e non attraverso una sua ricostruzione sistematica, legata quindi puramente al contingente e non anche al suo divenire, ovvero al suo passato, al suo presente, al suo futuro, lo Schlegel offre qualcosa di molto consistente alla interpretazione storicistica che fa della scienza giuridica, ovvero della conoscenza del fenomeno giuridico, una conoscenza storica. Nello Schlegel, filosofo, il discorso è fatto sul processo conoscitivo del reale. In Savigny, storico, invece, il discorso è portato sull'oggetto della sua contemplazione di quel momento. A questo punto ci si pone un'altra osservazione. Questa scuola storica del diritto che nasce con Savigny e che ha nel manifesto di Savigny e della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza e nella rivista che egli fonda nello stesso 1814, le sue testimonianze prime, può considerarsi un prodotto della guerra di liberazione? Può considerarsi un prodotto della rivoluzione nazionale tedesca e quindi inquadrarsi in quei fenomeni di risveglio nazional patriottico che accompagnano la vicenda politica della Germania sotto l'egemonia francese, oppure è qualche cosa differente, nel senso è qualche cosa che si riallaccia più dichiaratamente a una cultura tedesca che sta recuperando se stessa in funzione anti-illuministica ma nazionale tedesca e non anche a un legame diretto con la guerra e la resistenza? Io credo che il problema sia estremamente complesso qua, nel senso che è difficile dire se il fenomeno Savigny, chiamiamolo fenomeno, lo storico Savigny nasce e il giurista Savigny nascono come espressione della resistenza del popolo tedesco alla dominazione francese, oppure se si inquadrano in tutto un fatto più grosso di formazione del romanticismo culturale e di una storiografia tedesca legata a certi postulati filosofici. Secondo me, quale che sia la risposta che voi volete dare, che ciascuno di voi vuol dare, e che nessuno in realtà può dare, perché non si può essere così univoci nel separare il fenomeno guerra di liberazione e formazione di un certo tipo di cultura, secondo me non c'è dubbio però che nella figura di Savigny, e purtroppo questo fatto è stato sottovalutato, diciamo molto spesso, il fenomeno della guerra e il fenomeno della resistenza antifrancese hanno affinato il discorso che egli fa con la necessità del popolo tedesco di affrontare il problema giuridico in ordine alla sua tradizione, in ordine al suo Volksgeist. In che senso? È il legame, secondo me, che per Savigny diventa dominante con la vicenda della codificazione imperiale francese. È il legame col Code Napoleon che porta a questo. Voglio dire questo, che Savigny è indotto a ripensare all'intera storia del diritto, all'intera storia del diritto tedesco, all'intero fenomeno giuridico, in chiave di definizione di certi contenuti culturali che sono direttamente collegati al fenomeno della codificazione napoleonica. A questo punto io mi fermerei, mi fermerei un momento, mi bevo un bicchiere d'acqua. Facciamo 5 minuti, noi abbiamo questa consuetudine, facciamo 5 minuti. Giuridico in relazione passato e presente col fenomeno giuridico stesso. Ha messo in luce schiera anche quello che è il ruolo poi che avrà la pandettistica come punto in fondo culminante dell'evoluzione della scuola storica del diritto nella ricostruzione istituzionale, in certo senso formalistica, dogmatizzante di un certo sistema giuridico. È chiaro, è un problema grossissimo, è un problema a cui io adesso non vorrei rispondere, perché preferirei rispondere alla fine, nei limiti in cui sia in grado io di rispondere, perché i miei limiti sono fortissimi, ripeto ancora una volta, che sono assolutamente a zero ancora come preparazione, nel senso che io cercherò di dare delle idee, delle ipotesi di lavoro a me stesso, è un campo sul quale io sto lavorando e chissà mai se tirerò fuori qualche cosa. Io sto studiando ancora questo, da questo punto di vista, molto ciò da studiare, molto ciò da imparare. Comunque dopo io risponderò, se tu qualcun altro vuole sentire. C'è qualcuno ancora? Allora io volevo dire... Prego, scusa. Cosa. Per me è molto suggestiva, è l'ultima domanda, l'ultimo problema che hai posto. E cioè, C'è questo, questa concezione che viene prendendo piede nel 14, a cominciare dal 14, e vada direttamente legata al movimento della guerra di liberazione in Germania e in Prussia. È una domanda suggestiva perché coinvolge in realtà tutto quanto il panorama culturale del mondo tedesco di questo periodo. O se invece, e qui proprio chiedo lumi, se invece non possa essere spinta ancora più all'indietro, prima ancora dell'epoca napoleonica, in quel movimento generale della Germania di ribellione alla francesizzazione. Cioè è stato soltanto il codice, l'estensione, cioè tu vuoi dire civile, no, teniamoci, c'è tutta la reazione all'illuminismo la reazione anti-illuministica, ma prima ancora la reazione antifrancese, proprio contro il francesismo, che era molto diffusa. Basta pensare alla stessa posizione di Federico II di Prussia, e tu stesso hai nominato lo Herder e il Lessing, e tutta la cultura tedesca di questo periodo, anche pre-rivoluzione francese e pre-napoleonico, che ha già assunto un atteggiamento proprio di polemica contro la Francia, contro la cultura francese, contro la latinità. Ed è in questo periodo che sorgono i primi aspetti del romanticismo francese, proprio come tedesco, come esaltazione del particolare, come esaltazione della storia in contrapposizione all'universalismo razionalistico. È una domanda che mi pongo, cioè lo possiamo spingere ancora più indietro nel tempo? Sì, e c'è quel libro di Merkel, non so se lo conoscete, pubblicato dalla Terza, che adesso mi pare circola nella biblioteca, nella UL, la Terza, Universale Economica. Merkel è un professore di storia della filosofia all'Università di Roma. Io ho letto questo libro. È di Trento Merkel? Non lo sapevo. No, Merkel, sì. È un trentino. È trentino, sì. No, sono il mio tedesco. Esatto, è stato tuo scolaro? Guarda, ecco, è un libro molto intelligente questo, e Merkel in fondo sostiene una certa, accentua al massimo l'idea di una certa frattura nel novero della cultura tedesca tra i gruppi illuministi e la cultura a loro parallela preromantica e successivamente la cultura romantico-storicistica. Ora qui il discorso che tu fai è questo: siccome il panorama tedesco del Settecento è un panorama variatissimo, ci trovi tutto, secondo me. Cioè tu trovi una componente che può essere considerata pre-romantica, e allora siamo sul filone tuo, no? Rivalutazione del mondo medievale, rivalutazione delle tradizioni patrie tedesche, eccetera. Ma con questa Savigny si pone in contraddizione pure, dopo, come vedremo alla fine, lo diremo. E viceversa ci trovi una componente illuministica che è poi la componente sulla quale si costruisce un certo tipo di modello che sul piano della storia giuridica sarà quello di Thibaut, per esempio, cioè del grande antesignano di Savigny, no? Questo voglio dire. Per cui è difficile rispondere così fortemente, così, è una cosa troppo vasta, troppo variegata per poter rispondere. In realtà è così... Sono domande che avete posto sia Schiera quando Schiera mi ha parlato del rapporto tra scuola storica e pandettistica, e quando tu mi parli del problema legame con l'antilluminismo tedesco della cultura romantico-storicistica che avrà poi in Savigny uno degli esponenti. Sono cose terribili che mi ponete, voglio dire, di fronte, no? Alla mie povere, scarse membra, dico, non, ancorché concepite in un tutto organico. È suggestiva. Sì, ecco, e sono domande difficili. Adesso cerchiamo di andare avanti, dico se c'è qualcun altro, no, cerchiamo di andare avanti e poi magari riprendiamo il dibattito e vediamo cosa possiamo portare al termine di questo nostro lavoro comune, diciamo. C'era però un'altra, allora per andare avanti, no? Scusa. Un'osservazione, quelle richieste, ricordo, volevo fare, no? E questo qui si rifà ancora una volta un'informazione solo bibliografica, letteratura, insomma, è questa appunto interpretazione che da Franz Viacker sì. del Zavigny e più in generale la scuola storica del diritto. Ecco, certo. Mi sembra di ricordare, insomma, che Zavigny e che Viacker... Ce l'hai Viacker lì, scusa? No, ho solo quelle citazioni... Ah, beh, sì, sì, sono... Sì, sì, no, va bene, no, speravo che ci avessi Viacker, va bene, non importa. Ecco, che lui si pone il problema, insomma, di collegare il pensiero di Zavigny con il pensiero liberale tedesco. E in modo particolare con Kant, con Humboldt. Sì. E lui riesce a compiere questo collegamento e anzi direi che privilegia proprio come l'ambito culturale ideologico più attinente insomma alla figura di Zavigny esattamente quello di questo liberalismo tedesco. No? Sì, lui ne fa un po' un discorso in termini kantiani. Se io ricordo lì nel discorso di Viacker, Viacker dice che tutto sommato il sistema savignano politico-istituzionale, legislativo, è un sistema che nel fondo è un sistema garantista, perché garantisce le posizioni del singolo contro una linea di egemonia totalizzante di uno Stato che considera questo singolo appiattito nella collettività. E da questo punto di vista, in fondo, contro il giusnaturalismo di marca latino-francese e in certo senso anche di marca tedesca, di marca in qualche volta anche germanica, la posizione kantiana serve di più per dare una certa possibilità di interpretare il discorso di Savigny e in genere il discorso che viene fatto da questi romantico storicistici tedeschi sulla necessità che lo Stato organico rispetti le varietà e le particolarità sociali. Questo è un discorso molto serio, mi hai fatto bene a ricordarlo, e questa è giusta l'osservazione che fai, perché in effetti è questo il tipo di discorso. Lui vorrebbe porre quindi in risalto il collegamento che c'è, tu hai posto riferendoti a lui, il collegamento che c'è nella cultura liberale tedesca tra questo garantismo kantiano, humboldtiano e in fondo la presa di coscienza da parte di questo pensiero della scuola storica di quelli che sono i diritti del singolo contro lo Stato legislatore che appiattisce, che uniforma, che... Sì, questo è vero, questo è giusto. Non solo in questo senso, non solo in senso... Scusa, se è possibile... No, no... No, ma che diavolo, scusa, è anzi molto importante per me, questa è una cosa su cui secondo me è proprio importante quello che hai detto. Non è solo però, quello qui è importantissimo, nel senso garantistico, perché questo discorso tra l'altro poi torna fuori molto con grande violenza in un pensatore che in realtà non ha niente a che fare con Zanna, che però costituisce un grosso elemento della cultura tedesca, che è Lord von Stein, che però non è tra i sì. Ecco, cioè l'elemento garantistico. Ma neanche mi sembra, io purtroppo qui devo faccio riferimento a una cosa di cattivo gusto. No, no, no, e invece aderenza al testo, beato te che ce l'hai, no? Dico, no. Il testo proprio è il mio, cioè, un'interpretazione perché non ho altri che li non. Vabbè, comunque sei molto serio a citare. Il problema è questo, no? Lui dice, dico io. Punto di partenza è ancora una volta il nuovo concetto di Stato, destituito di ogni significato politico-amministrativo concreto, quindi non lo Stato assoluto, non lo Stato di Federico il Grande, ma elevato nel suo rapporto immediato col cittadino, accuratore supremo della realizzazione nel mondo dell'idea morale, dello spirito, e quindi qui tutta la esatto. cosa... La derivazione filosofica e del... Attraverso tale funzione si realizza l'identità di cittadino dello Stato e cittadino del mondo, in corrispondenza con il concetto di totalità dello spirito e della conoscenza. Ma questo è Kant. No, questo è Kant, ma questo è Kant. Questo è anche il, secondo Viacker, il recupero che Zavigny compie di Kant, no? E l'utilizzo che fa di Kant per la sua considerazione giuridica. sì. Da questa istanza, quindi tipo, diciamo così, universalistico, insomma. Un po' metafisica. Lui la concretizza nella storia, cogliere sì. il diritto come elemento di garanzia, certo, come elemento di garanzia. Insomma, anche addirittura come grande contenitore, come contenitore privilegiato, certo, dell'esperienza storica. No, sono d'accordo. Questo allora che rafforza ulteriormente il discorso. Cioè, però sempre la chiave è la chiave il garantismo. Sì, d'accordo, però insomma... È perché così spieghi il concetto liberale. Ecco, questo mi interessa, cioè che tutto sommato è possibile anche introdurre dentro una interpretazione liberale disabili, che allora capisci... Non è detto che sia una liberale progressiva, ho detto, può essere una liberale conservatrice. Però liberale comunque è liberale, cioè non è controrivoluzionaria. Beh, Dio mio, no, il discorso quando noi parliamo, però scusa, sai, qui non sono d'accordo con te. Noi diciamo che potrebbe essere il problema, potremmo collegare il pensiero di Savigny alla controrivoluzione e alla resistenza antinapoleonica, no? Ottimo, questo diciamo, se potremmo come via di ipotesi. Ma si può benissimo essere anche liberali e antinapoleonici e antirivoluzionari. Cioè non è necessario che il liberalismo sia solo da parte francese, voglio dire. Tant'è vero che l'Inghilterra conduce una battaglia liberale. Il recupero di termini liberali e di concetti liberali che avviene durante le guerre napoleoniche per iniziativa prevalentemente inglese ha un fortissimo successo in Europa. È il momento del costituzionalismo spagnolo, del costituzionalismo siciliano, no? Che sono forme di costituzionalismo, tra virgolette, liberale, non di modello inglese. No, più e che si riallacciano a costruire le tradizioni storiche. No, non lo so, sai, come ti dico, io sto pensando queste cose come ci stai pensando te. Dico, non c'è, voglio dire, io vi chiedo scusa per tutte le insufficienze che vengono fuori da parte mia, grossissime insufficienze, io ve l'ho detto subito, sono ipotesi di lavoro, sono suggestioni, sono interrogativi che io ho prima di voi e che magari io trasmetto a voi, dico, ma io vorrei non averli. E quindi tutti gli interventi che fanno Corsini, Schiera e vorrei anche altri, a me servono proprio per capire meglio questo problema. Fatto con termini molto più appropriati, anche perché i due interlocutori erano conoscitori della materia, cosa che io non... Vagamente, signor Baglio, da parte mia vagamente, Schiera meglio di me perché c'è scritto un libro. Certo che stanno uscendo delle ipotesi qui, sono dei problemi, perché nessuno, appunto, tranne i due interlocutori, sono molto coerenti. Ma era un po' quella domanda che io privatamente avevo fatto al professor Pisatelli, nel senso che mi sembrava che all'interno di questa scuola del diritto storico vi fosse una forte componente, e non soltanto liberale in senso garantistico, ma una componente che se sviluppata in un certo modo poteva diventare anche estremamente progressista, proprio come opposizione a quelle forme di Stato totalizzante che uscivano da una visione settecentesca e diventatrice e per quanto dichiarata democratica poteva poi svilupparsi in uno Stato che assorbiva l'individuo. Perciò mi pare che di questa componente, appunto, garantistica sì, ma era un garantismo che valorizzando in particolare l'individuo, la comunità e la formazione storica non soltanto del costume, ma anche proprio delle istanze giuridiche, poteva un domani entrare in collusione con quelle strutture generalizzanti, totalizzanti, che poi erano anche tipiche della Restaurazione. Vero che poi si diceva col professor Pisatelli, questo nell'ambito dell'ideologia, nell'ambito della dottrina, poi bisogna vedere come questo... O di una certa interpretazione della dottrina, le chiedo scusa perché è molto... Giustamente il professor Schiera diceva, bisogna poi vedere come questi principi si calano nell'ambito della realtà, sì. E se calandosi e concretizzandosi assumono un carattere conservatore o meno, ecco. Però che ci fosse questa componente da potersi sviluppare anche in senso liberale progressista, oltre che in senso liberale puramente garantista, mi pare che sia utile su evidenziarla. Ma perché i termini, scusa se intervengo, no, i termini vanno riferiti alla situazione storica. Alla situazione storica, il Napoleone nasce sì dalla Rivoluzione francese, siamo perfettamente d'accordo, ma alla fine c'è una involuzione e una opposizione completa agli aspetti iniziali della rivoluzione francese. Ed ecco perché lo stesso liberalismo importato dall'Inghilterra finisce per trovarsi necessariamente in opposizione con quelle che sono le ultime derivazioni involutive del moto rivoluzionario francese. Insomma, voglio dire, per me i termini non possono essere mai assunti in senso assoluto, bisogna sempre riferirli al momento storico in cui ci si trova, ecco. E ha ragione. E allora il problema è, non ha una risposta univoca. Non può averla il problema una risposta univoca. Anche il richiamo a von Humboldt, per esempio. Non l'avevo fatto, l'ha fatto Schiera, io non l'avevo nominato perché non rientrava qua nei miei... onestamente devo dire che non l'avevo visto von Humboldt, onestamente. No, ma è un garantismo anche totale, in Humboldt c'è in pieno l'impostazione garantistica. Io mi sono fondato in genere su coloro che hanno un immediato legame con le proposizioni di Savigny, ecco, sì, da questo punto di vista. Ma era uscito anche questo accenno. O perlomeno con alcuni di coloro i più interessanti da un certo punto di vista, per il mio discorso limitatissimo, settoriale, parziale e veramente scarso nella sua cosa. Ma l'ho detto proprio questo, lo dico per evitare che mi fuciliate al termine della mia difesa. No, ma guarda che il pregio di questo tipo di organizzazione, di colloquio, è proprio questa. E certo, di essere spontanea. Sì, perché così ci avviene un trappolo.